nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terra, meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Prospettive al mondo, oh, imprevedibili.